che ne rischia il doppio. Quindi, comunque sì, mi sento più che Godzilla o X-Men o Mostro, insomma, come si scrive da un bel po' di anni a questa parte, mi sento semplicemente uno sfigato. Cioè, nel senso che le prove contro di me sono veramente misere e stupide, cioè nel senso che i PM hanno fatto veramente un lavoro scarso, secondo me, se non si sono impegnati a cercare. Ora, la galera è una merda, su questo non c'è dubio, però cazzo, volevano andare a cercare veramente i veri black bloc, non si limitavano ai 10, che tipo sai, 10 volti in odio, comunque a quei 10 che erano facili da prendere nella mischia, no? Anche io penso che a me mi abbiano semplicemente riconosciuto perché faccio parte di faccio movimento in città da sempre, quindi onnipresente a ogni manifestazione, a ogni corteo, a ogni iniziativa, no? E probabilmente ero già stato fotografato nel corso degli ultimi 20 anni. E quindi mi hanno beccato lì a Genova, tra l'altro con prove ridicolissime, diciamo fra virgolette i veri black bloc non li hanno mai beccati, hanno ben pensato di beccare il primo sfigato di turno. E anche perché i black Fra cui io. bloc erano anche del resto dei 300.000, nel senso che poi no, c'era anche una capacità di stare in piazza che andava poi oltre, secondo me, pure le singole persone, no? Quindi quando tu dici non vuole individuare me, è che effettivamente avevano anche nei giorni immediatamente successivi avevano bisogno di dare in pasto, no? Un risultato in Sì, qualche modo. assolutamente. Immediato, una risposta immediata a quelle giornate, un contraltare anche secondo me alla gestione invece pesante dell'ordine pubblico, cioè a giustificare in qualche modo che quello che è stato fatto da parte della polizia aveva un senso in qualche modo, aveva un motivo effettivo e questo motivo appunto erano questi appunto famosi black bloc, quindi è un po' voi 10 scontate secondo me questo soprattutto. Sì, assolutamente. Ora, indipendentemente dalle prove che abbiano contro di ognuno di noi, c'è chi, ad esempio, come Ines, la ragazza cioè, con cui ho una bambina, che sì, avrà quel suo servizietto fotografico di 20 fotografie, ma alla fine la cosa c'è più cattiva, cattiva, cioè, tra virgolette, grosse quanto una casa che ha, è lei che spinge un carrello fra un DPRB e l'altro. Cioè, lei si sta buscando 6 anni e 6 mesi perché ha un carrello con delle patatine, capito, in mano. Infatti, secondo me, poi la cosa devastante, al di là, insomma, delle questioni, il magistrato ha fatto più o meno bene il suo lavoro, è che quello che poi esce da Genova è che quello che poi viene dato in pasto poi effettivamente a chi vuole all'interno della cosiddetta opinione pubblica il suo pezzetto, no, di vendetta personale è. Evitate di andare in piazza perché anche se non fate un cazzo, comunque vi becchiamo e vi facciamo marcire dentro una cella. Questo Ma io secondo me è per quello che questo esce dico, fuori. cioè, che stanno, cioè, che ne so, cioè il salumiere fa il suo lavoro, il panettiere fa il suo lavoro, che i PM facessero il loro lavoro per quanto tipo possa essere brutto per me, poi per loro probabilmente sarà il lavoro più bello del mondo, però dico, cioè, lo vuoi fare bene, basti a cercare in giro per l'Europa perché si sa benissimo, insomma, che la maggior parte, almeno per chi era lì in piazza come me in quel momento, se lo sai che alla fine quelle 100, 30, 50, quanti erano? Cioè, non c'era, se c'erano erano pochi comunque, cioè, tutti quelli che erano lì nei paraggi dello spezzone del blocco nero sentivano che nessuno di quelli lì che materialmente stavano danneggiando, io parlo sempre di danneggiamento e mai di distruzione in questo caso, che stavano danneggiando, non ce n'erano italiani, se ce n'erano comunque erano pochissimi, cioè, quindi è proprio per farla facile, dici becchiamo sti 10. Senta, qualcuno gliela si accolla, ora che non stiamo facendo niente, se non fanno niente gli resuscitiamo pure con partecipazione psichica e via. Vai, 10 l'abbiamo beccati, così. Cioè io ad esempio su, ora non so quante fotografie ho, quante prove ho contro di me, però io materialmente, cioè in cui proprio ho fatto qualcosa, è una singola foto, una. Cioè su 50 che ne avrò, su 100, su video, su tutto quello che c'è, io ho una sola fotografia vicino al banco. Ora vabbè, me la vuoi far pagare, fammi pagare il danneggiamento del bancomat, non mi dare 7 anni di galera, cioè, non sta né cielo né in cielo né in terra, capito? Non regge come cosa, cioè è assurda. sono condanne abbastanza esemplari, no, da questo punto di vista. Sono sì, decisamente, ma anche chi ha preso 15 anni, cioè anche se ha molte più prove contro di noi. E vabbè, lo sappiamo tutti, cioè penso che quelli che ascoltano in questo momento sanno benissimo quello, cioè, che intendo dire. Cioè, anche se tu hai avuto le Molotov in mano per tutta la giornata, non puoi dargli 15 anni, anche perché, cioè, negli ultimi anni si sente di una marea di psicopatici che ammazzano figli, mogli, mariti, cioè succede l'inferno. Non lo so, ma il nome più famoso, giusto, che ne so, la Franzoni, quanto gli hanno dato la Franzoni? 15 anni probabilmente. Ora che sia colpevole innocente, all'Indoli, come cazzo si chiama quell'altro. Cioè, questi qua gli danno 10 anni, ti ammazzano di una serie di persone e comunque sei lì, è pazzesco. Cioè, è ovvio e scontato, tutti lo sanno che è spudoratamente un processo politico, cioè è normale, perché se è una situazione di quelle, cioè, che ne so, io penso che se uno se ne va in giro per la mia città e spacca un banco, ammazzano, gli danno 7 anni. No, certo. Infatti penso, cioè, che okay, dammi il non succede. Io fai conto, sono pure incensurato, quindi me ne sì, no, ma infatti effettivamente poi uno, come dire, gli viene subito in mente, no, di paragonarsi al più turpe criminale che vede sui giorni, sbattuto sulle pagine dei giornali. A questo sicuramente che faranno, cioè lo bruciano vivo come minimo. Invece in realtà sì. Questo non per dire che esistono dei vari pesi e varie misure, poi in fondo tutto quello che vediamo rispetto a queste questioni sono le forme di giustizia, insomma, nello Stato borghese, nelle sue varie eccezioni, nelle sue varie forme che può assumere, cosa che almeno a me personalmente, ma penso a molte e molti all'ascolto e dentro questo studio, faccio abbastanza schifo in tutte le sue forme possibili e immaginabili. Dopodiché è assolutamente vero che c'è poco da fare, che quello che si voleva fare è quello che si ottiene effettivamente con voi 10, quello proprio di mettere di fronte all'Italia, al mondo, non v'azzardate, cioè, perché intanto vi becchiamo, cioè, come vi muovete, vi becchiamo. Sono delle forme allucinanti, perché come dici tu, appunto, se io domani sera vado a bruciare un bancomat sotto casa non mi danno 10 anni di galera, cioè questa è una cosa che non sta in nessun tribunale. Vediamo poi, vabbè, non lo so, vediamo un po'. Senti, io volevo intanto ringraziarti e ti lasciamo alla tua serata, perché sappiamo, insomma, che sei circondato da compagni, amici, amiche. Sì, quindi sono un'allegra brigata. Intanto ti abbracciamo e speriamo a questo punto di sentirci molto presto. Sì, sì, no, ma ci dobbiamo per forza, perché non ci credo che un tribunale, se non può essere, se non sarebbe ridicolo. Per chi risentiamo, tipo, stiamo belli tranquilli, organizziamo il più grosso evento che ci siamo visti in Italia, che ci devo dire. No, ma non cioè, io mi rifiuto, vado a fasi alternative, la verità, nel senso, sono giorni in cui dico, cazzo, siamo in Italia, in cui gente che ammazza, poliziotti che ammazzano ragazzi sono ancora a passeggio, e mi riferisco a Cucchi, a Aldrovandi e a tanti altri. Però minchia, non ci può, cioè, sarebbe assurdo, cioè, sarebbe veramente la pena più assurda probabilmente degli ultimi 40 anni che viene inflitta a dei manifestanti. Sarebbe assurdo. Fra l'altro poi oggi ho saputo che hanno pure sospeso la pena, non ho letto tanto perché non sono stato a casa, che hanno pure sospeso la pena agli sbirri che hanno praticamente condannato il 5 luglio, almeno credo di aver letto una cosa del genere, può essere. Nel senso che nessuno di loro si farà il carcere. No, sì, c'è un'idea del, come dire, come si chiamano, dei lavori socialmente utili, lavori socialmente utili, sì, cose del genere, cose che credo per un manifestante non si sia mai vista. Cioè, se tu ti buschi più di 3 anni finisci in galera, cioè pure se sei incensurato non si scappa. Anyway, comunque dai, che ci risentiamo in questi giorni, va? Sicuramente. Un abbraccio, ciao, ciao. A voi. Ciao ragazzi, ciao.